Lettera inviata a Roma dalla città pontificia di Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 27 giugno 1543. All'osservandissimo e reverendissimo Giovanni Pietro Carafa, in Roma. Signore mio osservandissimo, scrivo per comunicare alla Signoria vostra che so ormai per certo essere stato dato alle stampe il beneficio di Cristo in quel di Venezia. Da pochi giorni, Marco Antonio Flaminio ha fatto ritorno dal viaggio compiuto al seguito del Santo Padre a Busseto per incontrare l'imperatore. Interrogando uno dei paggi del Flaminio, sono venuto a conoscenza di quali sono stati i suoi spostamenti. Ebbene, i sospetti che nutrivo si sono rivelati fondati. Infatti, il Flaminio, dopo aver partecipato all'incontro di Busseto e aver trascorso colà il maggio, è tornato indietro compiendo un'insolita deviazione verso Venezia. Il paggio ha riferito che ha visitato la stamperia di tale Bernardo de Bindoni, ma non è stato in grado di dire di più. Tuttavia, sono sicuro che di altro non si è trattato se non della consegna, o forse già dell'ultima revisione, del testo in questione. Da quando un anno fa Papa Paolo III ha affidato alla cura della Signoria vostra la rinata congregazione del Sant'Uffizio, stabilendo che l'eresia possa essere perseguita ovunque si annidi e con ogni mezzo necessario, gli spirituali si sono dovuti fare più furbi. La bolla di Sua Santità, licet ed inizio, il conseguente rilancio dell'Inquisizione e, non da ultima, la morte del Cardinal Contarini, hanno spinto il Polo e il Flaminio a muoversi con estrema cautela. Sospettavo che avrebbero stampato il libercolo all'estero. Per di più, essi sanno bene che Venezia gode di una particolare libertà riguardo alla stampa e al commercio di libri. E se ancora sussisteva in me un dubbio sul motivo della visita del Flaminio alla stamperia veneziana, queste considerazioni lo fugano del tutto. Il mio Signore sa bene quale arma pericolosa possa essere la stampa. Senza di essa, Lutero sarebbe ancora il docente della sconosciuta università di una piccola e fangosa città sassone. In attesa di poter fornire presto nuove e utili informazioni al mio Signore, bacio le mani della Signoria vostra. Di Viterbo. Il 27 giugno del 1543, il fedele osservatore di Vostra Signoria, Q.